son avvezze a lacerar colombe. Ne premono gli eroi del Campidoglio, commensa trionfale, e notte il pianto. Papirio sia tua cura, custodire quel fanciullo, finché di lui disponga del suo fato l'autorità di Roma e del Senato.